Pirati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Garden was blessed by the gods of me and you. Cos'è what 12,000 a day? We wish for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. No, non ce l'ha con me stesso, no. Chiaramente mi sono reso conto rivedendola che potevo fare meglio, quello sicuramente, ma avercela con me stesso no. Io ho fatto semplicemente quello che ho sempre fatto, sono andato in campo, ho dato il massimo, in quella partita, se devo essere sincero, più del massimo, perché la partita me lo ha richiesto, viste le tante situazioni difficili, e non ho niente da rimpiangere. Io sono un arbitro molto istintivo, cioè io vedo una cosa e quello che vedo faccio, e difficilmente rifletto, o meglio, non è che non rifletto, è che il 95% delle mie decisioni vengono di istinto. Fortunatamente spesso sono corrette, le volte che sbagli chiaramente, non avendo quel pizzico forse di riflessione in più, puoi commettere qualche leggerezza in più. Me la prendo molto, sono sincero, non la prendo molto, poi magari mi passa, però lì per lì, siccome è una cosa che faccio con una passione smisurata, se lei dedica un'attività, una passione molto forte, e nel caso che non riceva una gratificazione ma una delusione, la delusione è molto forte. Quindi sta dicendo che si assume la responsabilità per quanto riguarda la gestione poi della partita, di come è andata poi la partita? Guardi, io credo di avere mille difetti, ma di avere un pregio, di assumermi sempre la responsabilità delle cose che faccio, per cui in quella partita mi assumo la responsabilità di aver fatto delle scelte, e mi permetta di dirle che sono state scelte almeno 5 decisioni assolutamente dire difficili credo sia riduttivo. Buongiorno, bentrovati, Roberto Scaltriti in redazione, in regia, Claudia Schiattone in redazione, Giovanni Capuano è venuto a trovarmi per questo programma di attualità. Allora, per Repubblica espulsi i ribelli, rivolta tra i 5 Stelle, Renzi, PD aperto a tutti, è scontro, no di Grillo sui migranti ribelli per il Corriere della Sera, la Stampa propone questa inchiesta sull'immigrazione, viaggio nelle nostre paure. Cosa ne pensa Grillo di cosa ne occhi? Gli incubi di Erdogan tra i curdi e Stato Islamico. Fatemi sentire i violini di Garcia. Non vorrei mica parlare di sport. Oggi presentiamo i 70 anni del campionato di pallavolo, no? Inizia il campionato di pallavolo femminile, 70 anni a Milano. Sì, oppure possiamo parlare del Papa che ama il dialogo e non l'imposizione delle verità? Oppure Londra è sempre più italiano, oramai siamo 500,000. Sai qual è il problema, Pier? Che Carlo sta facendo di tutto dopo per 2 settimane aver sparato di tutto contro Rocchi. Ieri ha visto un arbitro e un uomo che si è assunto le sue responsabilità tutto d'un pezzo, che ha fatto quello che avrebbe dovuto fare qualcun altro Dario, più sopra di lui. Dario dal camion che mi scrive, ma e non basta, ha coraggio. Dov'è Dario non dal ha camion? Coraggio di dirlo. È quello il suo problema. Beh, allora, io ti dico che secondo me bisogna innanzitutto sottolineare l'assunzione di responsabilità, nel senso che comunque nella vita se uno sbaglia e lo dice, secondo me è comunque un fatto positivo, un fatto che deve essere sottolineato. Poi rimborsi in Piemonte, il GIP vuole il processo, scrive Repubblica. Vai avanti, scrive Repubblica. Detto questo, Alessandro rimane. Marco Tulli, che è un sopraffino autore, mi aiuti lui. Di cosa parliamo? Fondi per il turismo, a 60 anni assunti come apprendisti. Sì. cena. Questo direi che è un po' il tema del quale si parla oggi in tutti i bar d'Italia. Esatto. Anche Camusso, l'appello agli iscritti, sabato venite tutti a Roma, eh? Pistorius, 5 anni di carcere. Beh, questo se ne parla. Non costa neanche tanto far fuori la fidanzata. In fondo ha fatto un affarone, se voleva far fuori la fidanzata, 5 anni di carcere, poi tra un po' gli danno i domiciliari, ha commosso la giuria. Allora, ascolta, facciamo così, traffico, va. Cosa dici, Pardo? Sblocca Italia, nuovi interventi sulla casa, IVA giù al 4% per le ristrutturazioni, quindi ristrutturate gente. Il caso, la democrazia estetica reclama leader giovani e belli, scrive Gabriele Romagnoli su Repubblica, poi ve lo leggo integralmente. No, comunque è inaccettabile questa cosa. Dovete dire che Rocchi... Ma chi è Rocchi? Io non conosco nessun... Non ha nemmeno scaricato responsabilità su chi gli ha fatto sbagliare sul gomito di Maicon. Non conosco nessun Rocchi. Non so chi sia il signor Rocchi. Traffico. Tutti convocati. Per risanare di rigore, ancora la roccia, ancora la roccia, ed è il 2-2, il pareggio della Roma, ed è il pareggio della Roma, ha fatto il capitano, il tiro, gol, capitano del gol! Sì, l'ambizione della Roma è cambiata, forse anche in base a quello che abbiamo fatto l'anno scorso, però anche quella era una squadra forte, era una squadra che ha giocato una grande partita, una grande rimonta contro il Bayern Monaco in quella partita, ma era un Bayern già qualificato, era un Bayern un pochino più morbido, diciamo. Credo che noi siamo altrettanto forti, se non di più. Il nostro gioco deve essere quello, l'entusiasmo, la gioia e niente da perdere o tutto da guadagnare, forse piuttosto l'atteggiamento sicuro di questa gara. Dall'arrivo di Rudy Garcia, del presidente Cempalotta, hanno fatto una grande squadra, ogni anno sono più forti. Sono stabili e dimostrano una giornata che giocano molto bene a calcio. Questa sera c'è Roma-Bayern e io la guardo, però oggi non parlo di sport. Fate voi, Giovanni Capuano, Pierluigi Pardo. Ci ha raggiunto anche Dario Dal Camio, ma scrive finalmente un arbitro che parla. Non so chi sia quest'arbitro, non so chi sia il signor Rocchi. Io parlo di cronaca e attualità oggi, come manco fossi Cruciani, il peggior Cruciani. Però ci ha raggiunto anche Alessandro Vocalelli, l'ex direttore del Corriere dello Sport, che compie 90 anni. Ciao Alessandro. Ciao, buongiorno. Non io compio 90 anni. Non tu, il giornale che tu hai diretto. Il giornale che hai diretto, sia chiaro. Di quale fatto di cronaca vuoi parlare? Ebola la Nigeria ora libera dal contagio? No, perché io del signor Rocchi non voglio parlare. Beh, parliamo di Roma Bayer, dai. Parliamo di Roma Bayer. No, parliamo. Voglio sentire Vocalelli sul signor Rocchi, che così almeno mi... Allora. Una volta che parla un arbitro, dai, dobbiamo... La prende larga, ma... Una volta che parla un arbitro? Bisogna essere contenti, insomma. Bisogna gridare viva, perché io penso che nella via della modernizzazione anche del mondo arbitrale non solo c'è l'aspetto tecnologico, ma c'è anche l'aspetto comunicativo. Insomma, se l'avesse fatto, pensa a quello che avremmo risparmiati se magari avesse detto quello che ha detto stavolta dopo 15 o 16 giorni, l'avesse detto il giorno dopo 2 giorni. Ma io sono per la conferenza stampa degli arbitri. Su questo mi sono scontrato duramente con Paolo Casarin, che spero poi interverrà, che invece è totalmente contrario a questa logica, ma avesse parlato subito dopo la partita. Però parlare dopo questa storia infinita diventa tanta roba. No? Adesso arriva un po' lungo, effettivamente, ma arriva un po' lungo. Comunque, meglio tardi che mai. Tra l'altro, ci sono due scuole di pensiero anche su quello che ha detto Rocchi. Non so se meglio tardi che mai. Non lo so. Però Rocchi sulla prima pagina del Corriere dello Sport a Roma, e Rocchi confessa. Altri sostengono che lui in realtà non abbia ammesso di fatto nessun errore, se non un errore di gestione di quel minuto che è arrivato con il rigore di Maicon. Poi non ha mai detto esattamente io ho sbagliato a dare il rigore di Maicon. Lui ha detto ho dato l'impressione di non avere in mano la partita. Siamo al top, e da lì ragazzi, in poi è scivolato tutto. Come dice Cruciani, siamo al top, perché non soltanto il regolamento, lo sappiamo, è applicabile, è discrezionale, quindi crea un casino. Adesso siamo arrivati alla discrezionalità nelle dichiarazioni dell'arbitro, una cosa eccezionale, cioè siamo proprio le dichiarazioni della moviola. Esatto, le dichiarazioni della moviola mi fa impazzire. Può essere una nuova rubrica per Vocarelli. Questa è la dichiarazione alla moviola. Torniamo indietro e risentiamo esattamente l'inflessione della voce. È bellissimo, dai, se ci pensate è bellissimo. No. Comunque, no, adesso proviamo a fare serie anche se non mi viene oggi. Siamo fuori tempo massimo, era già fuori tempo massimo Nicchi, è passata un'altra giornata di campionato, la Roma è a meno uno. Eccetera, io ho l'impressione, cioè la Roma stasera contro il Bayern Monaco, cosa che mi interessa ben di più. A proposito, come inquadri questa partita, direttore? Innanzitutto con la grande gioia di vedere uno stadio pieno, prima ancora di vedere come finirà. Io non sono più abituato, ahimè, in Italia a vedere stadi pieni, per cui quando una volta invece... Beh, lo Juventus Stadium è sempre pieno, anche di gente sospetta, ma intorno alle panchine è pieno. È vero, no, succede a Torino, succede anche perché poi hanno ridotto la capienza rispetto a delle altre. Insomma, comunque diciamo che succede raramente. Una volta, per dire, Inter-Napoli, domenica credo ci fossero 35.000, 40.000 spettatori. 40.000. Sarebbe stata una partita da 70.000, per cui il fatto di vedere uno stadio pieno, come a volte succede, come succede allo Juventus Stadium, ma raramente succede da altre parti, già mi sembra una bella notizia per il calcio italiano. Dopodiché è una partita che io inquadro nel senso che penso che per il Bayern sia una bella scocciatura trovare una squadra di quarta fascia, sì, come Roma, sì, perché perché la Roma magari l'aveva messo in conto, stando in quarta fascia, di trovare degli squadroni nel girone. Ma io penso al Bayern Monaco e ancora di più al Manchester City, che vuol dire trovarsi una Roma che sta dimostrando con i risultati, con il gioco, con quello che sta facendo, di poter essere un quarto incomodo così costo, penso sia una bella scocciatura. Sì, ma tanto a noi interessa solo il fatto, Pierluigi, che arbitra il signor Eriksson, svedese, guardaline Klasenius Vermark, sempre svedesi. Riccone, sai che aveva comprato quel 15% di quell'azienda telefonica che ha fatto un sacco di profitti. È ricco. No, ma stasera è bellissima, dai, stasera è bellissima e devo dire la verità che ci riconcilia veramente con la bellezza del gioco. Io penso che sono rimasto provato da quei 14 giorni, non lo nego, non è un punto e mezzo di share in più che fai grazie alle polemiche. Ma solo tu ti paga. Sei rimasto provato. Ma guarda, sarà una cosa, quelle due settimane sarebbe cioè, tu ti sei sposato e sei rimasto provato per l'arbitraggio di Rocky? No, dall'arbitraggio di Rocky, dalle polemiche nelle due settimane che sono state pesanti, e chiaramente senza quell'arbitraggio non ci sarebbero state le polemiche, quindi le due cose sono strettamente collegate. Godiamoci queste due grandi serate, veramente godiamocele, perché insomma abbiamo un bel campionato che è vivo e lotta insieme a noi, con due grandissime squadre distanti un punto, con 31 partite da giocare, con le italiane che danno la sensazione dopo tanti anni di poter essere competitive anche in Europa. Io credo che insomma la Roma nelle prime partite abbia dimostrato delle cose molto pesanti, molto importanti, e non era scontato che avesse 4 punti dopo due partite, e la Juve è ancora chiaramente nella condizione di potersi qualificare, per cui io un po' di ripresa la vedo, di ripresa la vedo e godiamocelo. E poi diverso è, e questo lo ribadisco, il lavoro del giornalista che di fronte a un argomento del quale si parla e si discute in tutta Italia va a raccogliere dichiarazioni, certo, punti di vista, e su questo non ci sono dubbi. No, anche perché, Pierluigi, anche perché se siamo arrivati al fatto che l'arbitro ha avvertito la necessità di parlare è perché i giornalisti o comunque l'opinione pubblica ne ha parlato molto, perché se non ci fosse stata, diciamo, la voglia di approfondire, di andare un po' giù duri, però se non ci fosse stato questo esercizio critico, probabilmente l'arbitro non avrebbe minimamente poi pensato di prendere un microfono e dire quello che pensava. Per sì, cui sono d'accordo con te. Una cosa è dire, andare a fondo nelle questioni, altra cosa è che e che magari si, poi si torna a giocare e siamo tutti contenti. Senti, Alessandro Vocarelli, ti chiedo ancora questo: c'è chi dice che la Champions League potrebbe pesare sulla Roma. La Roma ha ancora 4 partite, compresa quella di stasera in Champions League. Se poi passa il turno va agli ottavi, ne avrà magari altre 2, magari speriamo altre 2 ancora. Insomma, non tantissima roba in termini di partite. Io credo che invece la Champions League pesi di più nella testa della Juventus, sui nervi della Juventus. Perché? Perché la Juventus, se non raggiunge i quarti di finale, scatena una ridda di critiche. La Roma no. La Roma no. Sì, no, da questo punto di vista ha ragione. È chiaro che l'impegno, diciamo, la pressione che ha la Juve è superiore a quella della Roma. Però credo anche che alla fine il peso sia lo stesso per entrambe. Anzi, teoricamente, adesso noi dobbiamo mantenere pure un controllo del girone. Il girone della Juve è comunque più abbordabile di quello della Roma, per cui io credo che la Juve alla fine faticherà di meno per qualificarsi, almeno sì, penso di sì, perché la sconfitta col Madrid, a Madrid, è stata la sconfitta contro l'avversaria diretta, cioè sono le 2 migliori del girone, e tra l'altro neanche troppo meritata. Io penso che la Juve alla fine ce la faccia più con un po' più di scioltezza, mentre immagino che per la Roma, se tutto andrà come penso, sarà decisiva proprio l'ultima partita in casa con Manchester City, per cui dal punto di vista proprio della pressione quella della Roma mi sembra superiore. Grazie Alessandro Vocarelli. A voi, buona giornata a tutti, buona partita e buona Champions. 800240024, Giovanni Capuano che con me parlo al telefono, tra poco ci sentiamo dopo la borsa. Sull'episodio di Macron, le è venuto in mente se avessi avuto la moviola? Ma guardi, la moviola, anche questo non è una cosa che posso dare un mio giudizio, perché noi andiamo in campo con gli strumenti che ci vengono consegnati. Oggi sappiamo di avere l'auricolare, di avere gli arbitri di porta, che sono, ripeto, un grande vantaggio, e francamente non mi viene in mente, perché noi usiamo la televisione, uso io la moviola, se vogliamo chiamarla così, per riguardare la mia partita e per riguardare eventualmente i miei errori, dove posso migliorarmi. Convocati. Sarei tutto il pomeriggio di economia aspettando il signor Barisoni, ma non si può. Alessandro Bolzano, Francesco da Roma, Sergio da Torino, 800 24 00 24. Però un po' di economia la possiamo fare, eh? Ad esempio parliamo un po' dei conti dell'Inter, se vuoi. Sì, dopo. Argomento Rocky, per fortuna c'è Pierluigi Pardo collegato con noi e Giovanni Capuano che oggi è passato a trovarmi. Alessandro, buongiorno. Ciao a tutti. Allora. Volevo arrivare al discorso di Rocky, che comunque, per l'amor di Dio... BTP niente, non prego? Di BTP non parliamo, no? No, probabilmente avrà anche arbitrato male o che cosa, ma quello che, diciamo, agli occhi di tutto il mondo è apparso, quella cattiveria dei giocatori juventini che ad ogni fallo della squadra avversaria assalivano Rocky. Come fa un signore come lui, che oltretutto è titubante in tutto, probabilmente anche nella vita privata, a non tirar fuori il cartellino rosso? Pardo, rispondi tu. No, prego. La signora Rocky adesso la convochiamo subito. La convochiamo immediatamente. Ma guarda, ti dico che qualche giorno fa, proprio Radio 24, prima di sentire la dichiarazione di Rocky, eravamo arrivati a questa conclusione, cioè che il padre di tutti gli errori di questa partita è stato sul calcio di rigore di Maicon, per una doppia ragione: per la sostanza dell'episodio, che chiaramente è sbagliato, ma soprattutto perché in quell'episodio lì l'arbitro si è mostrato debole agli occhi dei calciatori. Era quello che in qualche modo lui ha riconosciuto nell'intervista, perché nel momento nel quale si dà anche semplicemente l'impressione che il proprio giudizio sia stato condizionato dall'atteggiamento aggressivo di chi è attorno, si perde credibilità e poi si cominciano a fare errori da una parte e dall'altra, probabilmente più da una parte che dall'altra, questo non ci sono dubbi nell'ambito della partita. Ma ripeto, qui cerchiamo di valutare la prestazione arbitrale. Dopo 14 giorni di polemiche, forse oggi possiamo concentrarci su quello che è successo. Secondo me, dal punto di vista della tecnica arbitrale, l'errore madornale è stato quello, perché da quel momento in poi c'è stata una completa perdita di credibilità agli occhi dei giocatori. Sì, e quindi poi come fai poi a prendertela con i giocatori, a dirgli no, ti devi comportare bene, non devi mettere pressione, se tu vedi che le tue pressioni perché ti portano... ti è scappato ormai di mano. Poi l'errore è stato quello, ed è quello che ha detto ieri Rocky, cioè di aver dato la sensazione di essere debole. Certo. Su tutto il resto siamo ancora qui 16 giorni dopo. Pogba secondo me era sulla linea, qualcuno dice che era qualche millimetro fuori, Bonucci interpretazione della FIFA alla mano, il gol è buono, non è fuori gioco, va contro il senso comune del pudore, però quella è l'interpretazione. Tra l'altro Rocky ha detto esattamente il contrario, cioè lui ha detto io sono un istintivo che quando decido vado, è tutt'altro che un arbitro leggero da questo punto di vista. Io vorrei che Pardo rispondesse a queste due domande che arrivano via SMS da Lorella e da Franci, non so se Francesco, Francesca eccetera, hanno lo stesso tenore. Lorella scrive: e perché non andate giù duri uguali per il gol dell'Empoli? Perché la stampa non va giù duro uguale sul gol dell'Empoli? Ditecelo il perché. Franci: visto il gol dell'Empoli, la mia stima per i giornalisti italiani è ulteriormente crollata. Silenzio totale. Se fosse stato convalidato alla Juve, guerra civile. No, ma non è questione di Juve. Mm-hmm. Sicuramente se fosse stato in una partita di livello molto più importante, molto più di cartello, sarebbe stato sicuramente più sottolineato, ma non se perché è a favore della Juve o a favore della Roma. Cioè è chiaro che Genoa-Empoli è un errore gravissimo, del quale ieri sera abbiamo parlato a Tiki-Taka, Cesari l'ha definito un errore gravissimo avvenuto in una partita, non me ne vogliono i tifosi del Genoa e dell'Empoli, che fa un po' meno notizia rispetto a Juve-Roma. Questa cosa qui anche è un'altra questione sulla quale è difficile, perché non dici vuoi più bene a mamma che a papà. No, ci sono 20 squadre, queste 20 squadre non hanno tutte lo stesso peso mediatico, non c'è niente da fare. Quando è stato l'anno scorso, c'è stata una cosa incredibile, mi pare in Atalanta-Udinese, se ne è parlato, ma se ne parla come curiosità arbitrale, giusto o sbagliato che sia. Se tu fai un programma nazionale ti devi occupare di quello che percentualmente è più rilevante e più importante. Quella è una partita che può decidere il campionato, quella di ieri sera è una partita di metà classifica, con tutti i migliori auguri per Genoa e per Empoli, che hanno tutto il pieno diritto di essere arbitrati bene, e l'errore l'abbiamo sottolineato e mi fa piacere ribadirlo, però è chiaro che se ne parli di meno, non è colpa dei giornalisti, però insomma neanche di chi ascolta, ma sono mi viene da dire le leggi del mercato, è un'espressione orrenda e brutale, però sì. però è questa. Tra l'altro ha parlato Gasperini, ha detto delle cose durette prima degli ascoltatori, sentiamo Gasperini. Questo non è un modo da fare, ma vadano veramente a tifare per un'altra squadra, ma neanche, vadano proprio a non guardare calcio, lasciano la gente normale, perché se il Genoa non ritrova un po' di amore da parte dei propri tifosi, ma fa fatica, e i risultati degli anni indietro, io sono arrivato un anno fa, poi posso anche, se il presidente vuole io mi levo anche, se il problema sono io mi levo anche, non è un problema. Ma questa roba che si aspetta costantemente il risultato negativo, indipendentemente dalla prestazione, per attaccare in questo modo solamente distruttivo, ma questo non è da Genoa. Se è diventata questa roba qui, è veramente, ci mettiamo il pelo sullo stomaco tutto, ci mettiamo il cotone nelle orecchie come facevano negli spogliatoi qualche anno fa, o ci appelliamo ai maghi. Ce l'aveva con i suoi tifosi contestatori, è andato giù durissimo. Un altro applauso. Sì. Tra l'altro, secondo me, ha detto quello che un altro avrebbe voluto dire domenica sera e non si è presentato perché era sfatto. Quello che è Mazzarri. No, e avrebbe ragione anche Mazzarri. Poi c'è stato il caso di Atalanta-Parma, eccetera, eccetera, dove invece i giocatori sono appecoronati a 4 ultra. Francesco Roma, buongiorno. Buongiorno, grazie della convocazione. A lei, naturalmente io sono un tifoso romanista da sempre, non soltanto adesso che la Roma va benissimo. Mm. Questa sera andrò a godermi questo spettacolo magnifico, che finisca nel migliore dei modi, vincano veramente il migliore, sia la Roma che il Bayern. Speriamo la Roma. Sicuramente sì, credo che ne abbiamo già dette moltissime sull'arbitro Rocchi. Io guardi, in tutta onestà, non perché sono tifoso della Roma e la Roma è chiamata, diciamo così, in causa con questo episodio di Torino, ma ci credo poco all'errore arbitrale. molti arbitri soffrono la Juventus, molti arbitri quando si trovano a Torino nell'incertezza non lo diamo il rigore, che ha concesso per il fallo su Totti non c'era, perché devi recuperare sulla sua posizione in campo, sul rigore che ha concesso a Totti era completamente sbagliata, stava dall'altro lato del campo. Che ci stanno a fare gli arbitri di linea, gli arbitri di porta? Allora dico, e il disegnatore, una partita così di cartello, le due squadre che vanno per la maggiore in questo momento, sì. Abbiamo Rocchi che già è stato contestato in Turchia? Non può essere, allora che devo dire? È stato in Turchia Rocchi. È stato in Turchia. Allora facciamo così, le facciamo arbitrare tutti a Rizzoli, tutte però, tutte dieci. No, ma Rizzoli facciamo, ragazzi. Però Rizzoli, ti ricordi che non lo volevano quelli del Napoli, perché è juventino anche lui, no? Ti ricordi? Juve Torino dell'anno scorso. Ecco. Dai, non è questo. Ma non solo, era l'arbitro dietro la porta del famoso Udinese Juve 1-4, sì. In cui fece espellere il portiere dell'Udinese dopo 5 minuti. Pier, ti ricordi? Ma sì, Rizzoli, ragazzi, non è secondo me. Poi diciamo, mi fido di una serie di valutazioni per cui probabilmente Rocchi non era la scelta giusta. Qui l'argomento però dell'ascoltatore dice un'altra cosa, al di là di chi è, di chi sia l'arbitro della partita. È un argomento legato al vecchio concetto della sudditanza, che in qualche modo è stato trattato anche in questi giorni da tutta una serie di protagonisti diretti, dallo stesso Trapattoni. È un tema lunghissimo, un tema complesso, è un tema che poi oltretutto in uno stadio bello e in certi momenti però aggressivo, dove la pressione la senti addosso come la Juventus Stadium, può avere un suo peso. Questo fa parte dell'animo umano. Diverso è la corruzione, certamente, diverso è Calciopoli, diverso è pensare ai famosi bonifici di cui parla Mughini provocatoriamente. Ecco, questa è chiaramente una fattispecie completamente diversa e completamente indimostrata. Cosa ha detto ieri Mughini a Tiki Taka? Ieri è stata una puntata abbastanza tranquilla insomma, sì. Da questo punto di vista, un duello in punta di ironia con Mattioli, poi è arrivata la Capotondi, c'era Scanzi che l'ha un po' stuzzicato, ma insomma, voglio dire, fa parte secondo me anche questo, di una normale dialettica. Questo fa parte secondo me anche della bellezza, no? Del poterne parlare dopo. Detto questo, io se posso fare un auspicio, io spero non ci sia più un errore arbitrale sulle partite importanti a qui fino alla fine, perché veramente non ne sento minimamente il bisogno di queste polemiche. A me piacerebbe anche la pace del mondo. Poi so che Carlo sta leggendo un articolo su Ebola. Io sto dicendo di cui parleremo credo dopo il traffico. La Nigeria ora è libera dal contagio, il virus risveglia paure ancestrali, ma medici e fondi possono fermarlo. Non sarebbe male trovare immediatamente anche l'antidoto. L'antidoto lo cerchiamo subito dopo il traffico insieme a Pardo. La malattia dell'anti-juventinità è peggio dell'Ebola. Tutti convocati. Pierluigi Pardo sempre collegato con Giovanni Capuano qui con me. Io ho un profondo rispetto per Paolo Casarin, che saluto e ringrazio. Ciao, sì, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Con il quale abbiamo discusso a lungo anche di recente pubblicamente sull'opportunità della voce degli arbitri, di conferenze stampa degli arbitri. Adesso io voglio chiederti, Paolo, queste parole di Rocchi come le valuti? Ma è una dichiarazione che è stata concordata, io credo, perché non può avvenire salvo poi squalifiche di anni, no? Senza una linea di contatto con il presidente dell'AIA, quindi immagino che sia successo così. Lui ha fatto una dichiarazione che ho visto solo in parte, cioè solo quella che il telegiornale ha fatto vedere, non quella alla sera. E credo che insomma sia stato un atteggiamento anche corretto, se vogliamo, no? Cioè che poi l'arbitro abbia detto qualcosa su quello che ha combinato, cosa rarissima come sappiamo, soprattutto rarissima quando si sbaglia, no? Come più o meno lui ha detto ieri sera, adoperando parole smussate, ma insomma la realtà è che la svolta della partita è stata quella in coincidenza con il primo rigore, insomma. Sì. Pierluigi, Paolo Casarin è contrario, da designatore lo era ed è eticamente contrario, filosoficamente contrario comunque a

da professionisti e il calcio, che è la stragrande maggioranza, dei semiprofessionisti oppure dei dilettanti. No, ecco, certo. Cioè la regola della chiara occasione da gol o del portiere espulso per i ragazzini di 15 anni è un obbrobrio, perché rischia che perdiamo pure i portieri. È chiaro. Grazie, grazie Paolo Casarin, grazie mille. Okay. Grazie. Salute e buonasera. Grazie. Pier, ti devo salutare. Eh sì. Mi spiace molto. Le cose belle finiscono presto. Finiscono presto. So che avevi trovato una cura per Ebola, ma domani. O parliamo, magari, o parliamo, magari, o parliamo di Roma Bayern o parliamo di questa nuova scoperta scientifica. Poi stasera mandano in onda l'intervista Cervellera, cioè di Genoa Empoli. E quindi domani. Io Cervellera, come dice Cesari. Cervellera, come si vede, gravissimo. Cervellera. Ciao, vabbè, Piero. Comunque no, io volevo parlare un po' delle mete top del 2015. Comunque. Ma lo facciamo domani. Rione Monti, bagno a luci rosse, turisti nudi nella fontana del 500. Ma meraviglioso, dove l'hai letta? Dove l'hai presa? Repubblica.it. Andiamo, mi dico. Ciao Pier, sentiamo domani. Ciao, GR. Io dico che vediamo, insomma, mi sembra che ieri abbia avuto una buona reazione, una persona in serie. Il calcio purtroppo è crudele e pragmatico. È il gioco di Garcia, il gioco più bello delle squadre italiane. Vabbè, come un gioco che è diverso da quello che ho io in mente, a me a volte sembra anche una volta. Avevo problemi dalla responsabilità e dalla stress, quindi non dormiva bene. E così sono venuto un paio di problemi fisici, ma senza esagerare, non ho mai avuto problemi veramente seriamente con il cuore. Finisce qui il primo tempo. Tutti convocati. Da Mazzarri, parte del pubblico non lo vede bene, lei cosa dice? Ma io dico che vediamo, insomma, mi sembra che ieri abbia avuto una buona reazione, una persona in serie. Il calcio purtroppo è crudele e pragmatico, nel senso che dipende dai risultati e dai miglioramenti che si possono avere man mano e dalle speranze che si fa crescere nella gente, perché il calcio rimane sempre qualche cosa che è la partita, è la prossima partita quella che conta. Quindi finché rimane il pensiero o il progetto di un avanzamento in crescita va bene, se invece questa sensazione dovesse decrescere, insomma, allora lo vedo nei guai. Allora io vorrei tanto parlare del mito fragile di Tutankhamon, denti sporgenti e piede deforme, pagina 27 del Corriere della Sera, ma noi siamo qui, voi siete qui, tutti sono qui, anche Matteo Caccia. Ciao, buongiorno a tutti, ciao Carlo, ciao Giovanni. C'è Giovanni Capuano, ci sono le parole di Moratti, c'è Evaristo Beccarossi al telefono, ciao Beck. Ciao ragazzi, ciao. Macchina piano che sto andando a Lecco, vabbè la strada è grande, però posso parlare in voce così chiariamo. Benissimo, adesso si parla di Inter, io mi alzo e me ne vado, ciao a tutti. Lancio la palla. Matteo Caccia reduce da San Siro. Matteo Caccia reduce da San Siro per la prima domanda di Evaristo. Dove ha fischiato? Allora, dove ha fischiato? Mi risulta Mazzarri. Prima, durante e dopo. Stai con Mazzarri o contro Mazzarri? Beh, chiedi a me? A te, Matteo Caccia. Certo. Ma io sto in blocco sempre con la squadra. Quindi questa, se Mazzarri fa parte della squadra. Non credo che sia in grossa difficoltà, che non ci stia capendo niente in questo momento, ma non credo di essere l'unico a pensarlo. Quindi questo è un altro paio di mani. Quindi sta con quelli che hanno fischiato. Che hanno fischiato, Beccaros. Tu con chi stai, bene? C'era un'interferenza, non ho sentito. C'era un fischio. No, dai, era importante reagire, perché veramente venivamo da un periodo dove la squadra dava l'impressione di essere vuota, avere problemi tattici. Con Napoli c'è stata una bella risposta, perché secondo me abbiamo fatto un bel primo tempo, rimediare anche una situazione difficile, però bisogna dare continuità, questo è un dato di fatto. Da Mazzarri mi aspetto che appunto anche a livello tattico, a livello di condizione fisica, è stata costruita una squadra con le sue caratteristiche. Mi aspetto di proseguire, cioè secondo me deve partire con Napoli un campionato nuovo per l'Inter, perché altrimenti non possiamo vedere l'Inter di Firenze e l'Inter con Cagliari. Evaristo, ma non hai l'impressione che si sia un po' ingigantito il problema? L'Inter ha perso male quelle due partite in tre giorni e questo ha cancellato tutto, anche quello che di buono è stato fatto prima. Non è questo il fatto. Il fatto che la squadra ti deve seguire, sappiamo che non sono più i tempi dove devi prendere i giocatori che costano delle cifre, devi lavorare e dare un'identità di squadra. Le difficoltà di Mazzarri in questo momento secondo me sono state proprio a livello di identità di squadra, che non si riesce a capire. 3-4 partite buone sulla strada e poi dopo il tracollo con Cagliari e Fiorentina. Trovare il giusto equilibrio, ma questo Mazzarri l'ha sempre fatto con le squadre che ha allenato, quindi era preoccupante per quello, nel senso che uno che si fa sentire è brutto se a un certo punto la squadra, cioè magari va bene il pari per come l'abbiamo fatto, era più preoccupante magari vincere una partita che però magari non davi certe impressioni, quindi a livello caratteriale c'è stata una bella risposta, adesso bisogna ripartire. Ma secondo me quello era l'importante, Matteo, perché si trattava di capire se la squadra stava con Mazzarri oppure no. Viste le due partite precedenti sembrava di no, la risposta è stata, gli americani direbbero, nel body language. Tu come diresti? Io direi, farei diciamo un ragionamento un po' più generale. Lui sta togliendo le dita dalla mano. Fischiava anche prima. Per come la vedo io, e magari Evaristo mi dà ragione oppure no, ma lo chiedo anche a voi. Secondo me l'Inter in questo momento è una startup, no? Cioè è un'azienda che sta nascendo da zero, è stata rasa al suolo per certi versi, e quindi come tutte le startup, cioè come tutti quelli che cominciano, ha dei momenti in cui le cose vanno bene, c'è grande entusiasmo, e degli altri in cui invece si annaspa. Poi guardate, vi confesso anche una cosa, che un tempo fa ho avuto modo di incontrare il mister Mazzarri, che è una buonissima persona e che, diciamo, per il quale provo anche un affetto sincero, e a un certo punto gli ho chiesto: mister, qual è stato il gol più bello che lei ha visto su un campo di calcio? E non so adesso se ve lo chiedo cosa vi viene in mente, che ne so, il gol di Van Basten, qualcuno mi ha detto, in Olanda, sì, Russia, sì. O il gol di Maradona, quello eccetera, con la mano, eccetera. Però quello con la mano. Con la mano, adesso non so, gli ascoltatori avranno in mente il loro gol più bello che hanno visto su un campo da calcio, e il mister Mazzarri invece mi ha detto: io sono un allenatore tattico, per cui se tu me lo dovessi chiedere ringrazio Roberto Scaltriti che mi ha messo una base di voi siete qui per rendere il tutto una roba che sembra un'imbecillità, ma invece è verissimo. Lui mi ha detto: se tu me lo dovessi chiedere, io il gol più bello che ho visto essendo un allenatore tattico era un gol in Ascoli Regina, sì. Lanzaro lancia Vigiani che la passa ad Amoruso e la mette in porta. Regina Ascoli, è come 2-0. Sacchi che ti dice che quella famosa Coppa Intercontinentale, sì, certo, col Medellin che addormentò mezza Italia, e a Beccalossi vengono i brividi, se ne sono certo. Beck, a parlare di tattiche, a parlare della regina, poi anche tattiche, così ci sono degli schemi, quando uno prende la palla e parte due fa gol, è una bella tattica anche quella. No, credo massimo rispetto, però a me dispiace, perché sai che credo di essere una persona molto equilibrata. In questo momento si ha la sensazione che Mazzarri non è ben visto dal popolo nerazzurro, per la squadra è seguita con simpatia, perché c'è stato un cambio generazionale proprio con i giocatori che avevano vinto tutto. Mi piacerebbe che nelle difficoltà si andasse tutti nella stessa direzione, al di là poi che uno possa piacere o non piacere, però la vera difficoltà in questo momento è proprio di Mazzarri a lavorare in una situazione difficile per lui, perché la squadra, secondo me, se si riesce a trovare il giusto equilibrio, non dico che a livello di Juve e Roma, quello no, però con le altre squadre io me la gioco alla pari con tutte. Sono d'accordo. Sarebbe bello che si remasse tutti dalla stessa parte. Tu stai parlando anche di Moratti, ad esempio, che io ho trovato abbastanza fuori tempo massimo, anche con le dichiarazioni di ieri. appena uscito da una sala dove era stato spiegato, perché poi non possiamo far finta di vivere in un acquario, che l'Inter non è una startup. L'Inter ha 100 e passa milioni di 103 milioni, 103. Poi dopo ci sono alcune magie contabili che ci può spiegare Belinazzo, però insomma è una società dal punto di vista economico con le ali molto appesantite, altro che startup. Ecco, io ho trovato Moratti completamente fuori contesto da quel punto di vista. Facile parlare alla pancia del tifoso, probabilmente sarebbero servite parole diverse, visto che Moratti ancora è ascoltato, o no? Però è anche vero che Moratti è sempre stato il primo tifoso all'Inter, quindi adesso ci sono due gestioni, cioè sono state due gestioni completamente diverse. Moratti ha l'entusiasmo, vedi, quando lui sottolinea, dice ok, c'è un progetto, però se non vengono i risultati bisogna cambiare, questo è stato il succo del discorso. Ma non sarebbe più onesto dire in questo momento l'Inter è questa, non può promettere vittorie, non può promettere risultati, non può promettere spettacolo, però deve rialzarsi in piedi. Cioè anche la gente deve capirlo che ad esempio è assurdo pensare di chiedere il licenziamento di un allenatore che è stato scelto, giusto o sbagliato che sia, che ha 2 anni di contratto, che non costa poco e che quindi sarebbe un danno licenziare. Ma difatti il tiro è stato spostato proprio su Mazzarri, perché vedi che la squadra è seguita in questo cambio, in questa ripartenza, responsabilizzando dei giovani, prendendo dei giocatori a parametro zero. Però il discorso è proprio quello della società nuova, che deve dire: io in questo momento vado avanti con Mazzarri perché ha un contratto anche importante, però chi è lì, e Mazzarri secondo me ha le caratteristiche per tirarci fuori e soprattutto far tirare fuori questa squadra le caratteristiche che lui vuole, perché noi a parte Kovacic e Hernández abbiamo ottimi giocatori aggressivi, ti possono permettere di fare certe cose, quindi la gente si aspetta quello. È chiaro che in questo momento Mazzarri ha avuto difficoltà nel trovare anche il giusto equilibrio, perché anche con Napoli tutti eravamo preoccupati, però lui ha proposto le due punte, Palacio e Icardi, poi in mezzo al campo avevamo ancora Hernández e Kovacic, ha dovuto inventare Obi esterno destro quando lui è un mancino. Quindi le difficoltà maggiori è trovare proprio il giusto equilibrio di questa squadra, però non saremo forti come Juve e Roma, ripeto, ma ho il dovere di pensare che questa squadra se la può giocare con tutti, poi nel caso poi vince, poi perde. Sì, sono d'accordo. Non si può vedere l'Inter di Firenze e Cagliari. Sono d'accordissimo, e l'Inter secondo me se la può giocare per il terzo posto, l'ho sempre detto. Grazie Beck, buon viaggio. Ciao ragazzi, ciao. Ciao, ciao. Matteo Caccia, facciamo outing, quanti anni hai? Ne ho 39. 39, allora all'Inter ne servono altri 5 per tornare grande, ne avrai 44. A voglia, rispetto ai 45 che ho aspettato per vedere qualche cosa di buono, sono più che accettabili. In mezzo ci sta un'Olimpiade, un altro mondiale. Poi la speranza è che si alterino un po' anche là davanti, no? Cioè le prime, so, un po' la Roma, un po' la Juventus. Ma Juventus ha già dato in questi 4 anni, sta dando tantissimo. Poi arriva Rocchi. No, Juventus è una squadra fortissima. Tra l'altro, il risultato di Sassuolo rivede in chiave diversa il 7-0 di Inter Sassuolo, no? Cioè la sua equazione è che siccome l'Inter ne ha dato 7 al Sassuolo, davanti a questa mi arrendo, e la Juventus ha pareggiato 1-1 col Sassuolo, a occhio la Juventus, a occhio l'Inter fa 6 punti è come i punti dell'ATP, no? Cioè se Federer incontra Djokovic, mi arrendo, vi faccio rispondere, fate le due risate, li vedo tutti seri, vi faccio rispondere a Gianni da Bergamo, qui mi arrendo. Quindi l'Inter praticamente batterà la Juventus 8-1, è così? No, questa è una chiave di lettura estremamente algebrica. Io le davo una lettura, diciamo, più romantica, no? Rispetto al fatto che gli equilibri non sono probabilmente proprio così rigidi. Mi viene da piangere dalla commozione. Gianni, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi convocato. E approfitto della presenza di Marco Caccia per fargli i complimenti per la sua trasmissione, che è veramente bella. Sì, sì, ne approfitto anch'io. Grazie per il Marco. È sempre un piacere essere conosciuto per nome dai propri ascoltatori. Grazie mille. Dica Gianni. Volevo dire dritto, due cose. Una sull'Inter per quanto riguarda Mazzarri. Non sono d'accordo con il grande Evaristo Beccolassi, perché secondo me l'Inter ha problemi per quanto riguarda fisici, oltre al discorso tattico di cui parlava Beccolassi. Perché è vero che le prime 3-4 partite siamo andati bene, però anche è vero che bisogna andare a vedere l'aspetto fisico di quel Sassuolo e l'aspetto fisico di questo Sassuolo che ha incontrato la Juve. E poi le partite con Cagliari e Fiorentina. Vi ho sentito ragazzi parlare che l'Inter non è entrata in campo e tante altre cose. Però il fatto che si arriva sempre dopo sulla palla rispetto all'avversario qualcosa vorrà anche dire. Quindi non è soltanto un problema tattico, ma anche un problema, secondo la mia opinione, di preparazione della squadra. Qualcosa è stato sbagliato. Io non vorrei passare per il vice di Di Mazzari, però ripeto, ha sbagliato due partite. Non so di cosa state parlando, quindi. Cioè lui ha sbagliato, lui, la squadra ha sbagliato completamente, Gianni, due partite. Quello, il primo tempo col Cagliari, poi la partita era finita e la partita a Firenze che era la settima in 20 giorni. Dopodiché, prima e dopo, compreso l'altra sera, anche se è stato fischiato, se la gente mugugnava col Napoli, si è vista un'Inter diversa. Io francamente trovo che oramai ci sia una sorta di pregiudizio, cosa che del resto mi sembra tradizionale, storica, cioè quando San Siro, quando l'Inter, i tifosi dell'Inter prendono di mira un giocatore, in questo caso un allenatore, c'è un marchio che poi è difficile togliersi. C'è parecchio autolesionismo, io vedo in tutto questo. Beh sì, direi. Io non so di cosa Matteo caccia gongola, so. Matteo. Io ricordo, guarda, mio papà, a cui voglio tantissimo bene perché è mio papà, è proprio il tipico interista che al secondo passaggio sbagliato dice quel giocatore non è da Inter. Ve lo ricordate Pasquale? Ve lo ricordate Pasquale? Terzino destro, giovanissimo, che poi andò all'Udinese, adesso non so dove giochi Pasquale. Credo ancora lì. Vabbè, Pasquale, io c'ero affezionato perché aveva la mia età e quindi vedevo in lui uno che ce l'aveva fatta. Ce no? la poteva fare. E ha fatto due campionati e mezzo all'Inter, mio padre. Poi l'hanno venuto a gennaio. E quando prendeva palla Pasquale, mio padre cominciava: oddio, oh, dai, yeah. Grazie per queste basi che fanno immediatamente sembrare poco serio quello che dico. E appena prendeva palla Pasquale, mio padre era: no, era a San Siro. No, era esatto. Una domenica pomeriggio, esatto, di gennaio. Era un bel giorno di San Siro. E beh, io sono più per quelli come Pasquale, cioè sono per appoggiare quelli che comunque stanno imparando delle cose. Brocchi. E Mazzarri. E Mazzarri. Cioè, ti piacciono i brocchi? E secondo me Mazzarri sta lentamente capendo delle cose. Chi è il tuo branco. Uomo in quest'Inter? Beh, è facilissimo dire Kovacic perché perché è una speranza. Medel per come lotta, però mi piace moltissimo Dodò. Ecco, vedi, se a lui piaceva Pasquale, oggi l'uomo di Matteo Caccia è Dodò. È Dodò. Ma perché è anche un bel ragazzo. L'aspetto fisico comunque davanti alle telecamere che è importante. Poi è brasiliano, ogni tanto ha fatto un paio di numeri. Poi sì. Perde la palla. È un po' come Coutinho, devo dire, perché questo è un altro mito. Un altro che è andato in Inghilterra, esatto. E sfonda. A proposito di giocatori che a San Siro non volevano più vedere, guarda, nemmeno dipinti. Però, guarda, Giovanni, io seguo tantissimo il campo inglese, poi il campionato inglese, e Liverpool è tipo la mia seconda squadra dopo l'Arsenal. Però è un po' una... è un po' una sola quella che Coutinho in realtà sta facendo benissimo al Liverpool. Fai, è una squadra forte, però vabbè, è sempre quello che è alto così e se arriva uno gli dà una spallata. La sensazione. Però stiamo aspettando il rientro di Alvarez noi del Sunderland, perché tra 15 giorni potrebbe rientrare. Senti, ma come lo vedi il tuo ex allenatore Gasperini? Poi devo andare. Rispondi ad Antonio da Ancona, poi ti lasciamo andare a preparare Gasperini, la puntata. Gasperini è stato un mio ex allenatore. Tre partite, un punto, sì. Ragazzi, fino alla fatale Novara. Ex allenatore dell'Inter o no? Antonio, buongiorno. Sì, buonasera, grazie della convocazione. Grazie volevo fare i complimenti a Matteo Caccia. Matteo. Grazie per il Matteo. Matteo come Kovacic. No, io volevo parlare dei Gasperini perché secondo me... Ma perché? Ma sei sicuro? Sì, sei genuano? Ma sei genuano? No, io tifo il Cagliari. Ah, ok. Quindi squadre che lottano per la salvezza un po', ecco. Sono abituato. Però non essendo tifoso del Genoa io non capisco lo sfogo di Gasperini, cioè per lui parla quello che sta facendo, la partita ieri l'ha buttata lui, ha tolto Rincon e ha messo l'Estien, ha preso gol a un quarto d'ora dalla fine più recupero e fa entrare lo stesso Greco e non mette Piniglia quando c'è da buttare la palla dentro l'area. Cioè i tifosi vanno rispettati, perché se uno fischia c'ha tutto il diritto di fischiare, deve non essere d'accordo. Questo, i tifosi pagano l'abbonamento, pagano il biglietto, fanno gli abbonamenti alla televisione, se ne vanno in giro per l'Italia. Cioè uno sfogo del genere da un allenatore con una squadra che non è che sta vincendo il campionato, che comunque sia sempre lì, che come si dice in Ancona campa e non muore, io lo trovo offensivo verso i tifosi del Genoa. Questa oggi se la vende Antonio, questa oggi Matteo Caccia se la vende, sì. Campa e non muore se la vende, sì. Apro così oggi. Ma Gasperini perché non ti piace? No, ma guarda, Gasperini mi sembra una persona molto carina, però io mi ricordo durante la preparazione estiva Gasperini aveva la faccia di quello che con la maglia della natura dell'Inter, di quello che diceva cosa ci faccio qua, Gasperini pagava prima di tutto di essere un ex juventino e a Milano gli ex juventini, a parte Trapattoni, non hanno campato semplicemente. No. E poi lui è arrivato pensando di fare la rivoluzione che hanno fatto dopo gli altri. C'era Moratti, a proposito di quello che dicevamo prima, Moratti ragiona con la pancia, i tifosi hanno cominciato a mugugnare e la storia di Gasperini è finita lì. A proposito dei tanti errori, poi probabilmente anche Gasperini non era un allenatore a livello dell'Inter, possiamo dirci tutto quello che vogliamo, ma se l'Inter ne ha cambiati quanti dopo Mourinho? 11, 7, 8, quanti sono? Partendo da Benitez, lasciamo andare a lavorare e arrivando fino a dove siamo adesso, se no voi siete qui non arriva mai qualcosa, vorrà Dodò dire direttamente, qualcosa vorrà Dodò direttamente all'albero azzurro, dall'albero azzurro scrive Carlo da Bergamo. Certo. Di cosa parli oggi? Oggi... Musica, prego, musica maestro. Guarda, è complicatissimo. Oggi raccontiamo una storia di... raccontiamo la storia... non se lo ricordava. No, oggi raccontiamo una storia molto molto delicata, perché è la storia di una ragazza che ha una malattia cronica che ha da quando è molto giovane, ma contro cui sta lottando tutti i giorni. È una storia di grande speranza, è arrivato anche Tiziano Bonini a dirmi dobbiamo andare, e quindi devo andare. Potremmo legare la storia di oggi alla storia di Walter Mazzarri, immaginando un bel futuro davanti a lei e davanti a lui. Ciao, grazie mille. Ciao Matteo Caccia, grazie. Allora, Michele da Roma, non ce la faccio più. Michele da Roma, buongiorno. Michele, dove sta? È da Rocchi. Michele da Roma. Michele, non c'è Michele. Senti, ti posso dire due cose intanto che recuperiamo? No, io voglio Michele. Michele, non c'è. Perché noi facciamo informazione e male, quindi no. Diciamo che sì, hanno, lo diciamo che hanno squalificato la curva del Verona per i cori, sì, razzisti. Sì. Montari esce facendogli il 3. Sì, anche se in realtà poi tu leggi il comunicato della Lega ed è venuto tutto prima, nel primo tempo, almeno quelli che sono stati sentiti, segnalati dagli ispettori. Sì. Però lui è uscito facendo 3. Comunque curva giusto, chiusa. No? Sì, curva chiusa. Curva chiusa. Mentre invece non è successo niente ai tifosi della Roma. Per quei soliti cori, Pessotto, buttatele sotto, quelle cose lì che si sono sentiti sabato all'Olimpico. Evidentemente sabato all'Olimpico gli ispettori della Lega dormivano. Multa? No, la multa l'hanno presa invece quelli dell'Inter, che hanno passato metà partita a ricordare ai napoletani che c'è il Vesuvio, c'è stato il colera, tutte quelle robe lì che un anno fa eravamo qui a parlare delle squalifiche. Poi, anche se Tavecchio ha detto che non è vero, che non c'è più la tolleranza zero, eccetera, eccetera, eccetera, 30.000 euro di multa, quest'anno la tariffa è quella. I club pagano, i club, quelli che poi mandano gli ultra sotto le curve a salutare, a farsi fare il processo, eccetera, va bene così. Va bene così. Lorenzo da Trento. Buonasera, buongiorno anzi. Buongiorno, buonasera. Buonanotte. Ecco, già, siamo un po' confusi. Allora, molto semplicemente, io sono piuttosto scandalizzata dalla la scarnati a Rocchi. Ha solo dubbi sul rigore di Maicon, che era evidente, ma non ha chiesto invece nulla sul rigore di Totti, che non c'era, sul mancato rigore non assegnato a Pizzo, e sulle altre questioni sulla quale avrebbe potuto chiedere. È stata un'intervista pilotata. Sì, Lorenzo, vagamente juventino, Lorenzo. Vagamente juventino. Sono juventino fino a Midollo. Ma era venuto sospetto, No, ma perché insomma pilotata? Cioè, non è che hanno detto Rocchi, tu vai lì e dici quelle cose. Non credo che sia successo questo. No, ma tra l'altro io devo dire che io l'ho vista tutta l'intervista, e invece è stata un'ottima intervista della collega Donatella Scarnati, che tra l'altro so che spesso ci ascolta, ci segue su Twitter. Lorenzo, non è vero. E poi tutti si fissano sul fatto che lui ha detto quella cosa sul rigore di Maicon. Lui ha fatto molto di più. Lui ha provato a spiegare e si è assunto la responsabilità dicendo che tutto ciò che è successo adesso dentro al campo è responsabilità sua. Avrebbe potuto dire mille altre cose, compreso quello, e la collega ha provato a farglielo dire: ma cosa succede negli auricolari, chi ti ha detto, qualcuno ti ha consigliato, e lui ha detto sì, però alla fine ho deciso io. Ha fatto, secondo me, un'operazione molto onesta e molto coerente, che va oltre poi star qui a spacchettare episodio per episodio. Detto che poi Lorenzo ha la sua moviola, Carlo ognuno ne ha un'altra, ognuno ha la sua, per cui potremmo stare qui una settimana. La fabbrica di Imperia della pasta Agnesi chiude, 4 giorni di sciopero. Sono molto dispiaciuto, anche perché mi piace molto la pasta Agnesi. Arriverà ancora, speriamo bene. Manuel, provincia di Bologna, buongiorno. Buongiorno, dottore. Vuole parlare della strana alleanza per le scarpe Reebok da Abu Dhabi a Hong Kong? Mi spegne la radio, per favore, Manuel, se no non sentiamo. Grazie, se no non sento niente, un gran frastuono. Dica. Dica. La radio, quello che pensa. Grazie. Dica. Dicevano, io sono interista, vorrei parlare di Mazzarri. Cioè, prima ho sentito qualche intervento, qualcuno dice che fosse l'Inter in fase di dopo Mourinho, magari di transizione più o meno. Ma allora lei Mazzarri sì o Mazzarri no? No, Mazzarri no. Mazzarri no. Magari perché non vincerà mai niente all'Inter, questo è poco ma sicuro, perché perdere contro quelle piccole squadre lì non ci vuole chissà quali giocatori per no. Con questa Inter non ce la facciamo più. Con questa Inter non vincerebbe neanche Mourinho, cioè lo scudetto, comunque trofei importanti. Magari può essere una squadra da Europa League, può essere un obiettivo a Coppa Italia, non lo so, ma con questa squadra non vincerebbe neanche Mourinho. Quindi non è questione di Mazzarri non vincerà mai niente con l'Inter. Con questa non è una squadra competitiva a livelli di scudetto, da qui a dire che non sia competitivo in valore assoluto, no, secondo me è una squadra da ricostruzione, è una squadra che si sta ricostruendo. Poi giustamente tu dicevi, ieri c'è stata una serie di soci, 3 milioni di euro, questo è il vero passivo di bilancio, voglio . Dire si riparte da lì di euro. Si riparte da lì, allora meno 100 e briscola milioni di euro, una squadra che si sta ricostruendo con un mercato che è stato fatto in maniera intelligente. Io dico questo, borsa. E approfitto della presenza di Marco Caccia per fargli complimenti per la sua trasmissione, che veramente sì, bello. Sì, ne approfitto anch'io. Grazie per il Marco, è venuto apposta, è sempre un piacere Marco. Essere conosciuto per nome dai propri ascoltatori, grazie mille. Tutti convocati. Faccio un appello al grande Renzo Piano, se ci viene a dare un occhio avremo un percorso migliore e daremo un altro sapore a Genova. Se guardate, faremo i colori del Doria. Ma chi lo paga questo progetto e questo stadio? Pantalone. C'è sempre Pantalone lo paga, perché questo qui non è un fatto chi lo paga. È chiaro che ci saranno dei finanziatori oltre me e il comune ci deve dare i terreni in concessione per 99 anni, perché lo stadio rimarrà ai genovesi, a Genova, e non è che ce lo portiamo a casa. Allora Renzo Piano è andato a dare un'occhiata all'idea di Ferrero e al di là di Pantalone ha detto non ci sta fisicamente, ma caro mio Ferrero, non ci sta fisicamente, ha detto Renzo Piano al secolo XIX. Per reggere dal punto di vista economico lo stadio deve essere integrato da un'attività commerciale abbastanza cospicua, quindi non solo da Pantalone, che assomiglia molto ad un centro commerciale. Bisognerebbe demolire il parasport e togliere spazio al salone nautico. Non lo vedremo mai quello stadio in riva al mare. Un pochino palamadano. Riccardo Pistoia, buongiorno. Sì, buonasera. Dica. Quello che volevo dire in merito lì a un discorso degli arbitri che avete fatto è che secondo me la tecnologia o si sposa a tutto tondo, vale a dire tutto viene visualizzato con la tecnologia in campo, oppure si sposa l'altra tesi, che è quella di lasciare agli arbitri le decisioni. Perché mettere poi mischiare le due cose. Oppure c'è anche la via di mezzo, eh? Qual è? La via di mezzo secondo me potrebbe essere solo quella del gol sì o gol no. E poco altro. cioè tutto ciò che è assolutamente misurabile sulle linee, che poi è quello che fanno gli altri, perché tutti dicono negli altri sport c'è la moviola. Poi la verità è che la moviola c'è per vedere se una pallina è dentro o fuori, se una palla è stata schiacciata dentro o fuori. Nel rugby, se è meta o no, nei casi in cui l'attaccante va giù col pallone in una situazione di mischia, però è una questione geometrica, cioè nessuno sta a discutere se una trattenuta del tiro da tre punti. Esatto, o il tempo, se è scaduto o no il tempo, tutte cose che nel calcio non ci sono, ad esempio. Esatto. Quindi si può fare per il gol e per qualcos'altro, non ad esempio per il fuorigioco, secondo me, perché oramai il fuorigioco è un'interpretazione. Cioè, ad esempio, non esiste nessuna tecnologia che ci può dire se il gol di Bonucci, a proposito di Juventus-Roma, è buono o no. Sono contrario a frugare nelle tasche della discrezionalità arbitrale. Cioè, la discrezionalità arbitrale per me è qualcosa di sacro. Poi è chiaro che siamo in minoranza, mentre ovviamente su tutte queste cose, ma mettiamola anche sulle linee del campo, la tecnologia va benissimo. Cioè però mettere una tecnologia per una rimessa laterale, ma capisci che è uno spreco di forze. Poi, a parte il fatto che si crea... Noi polemizziamo su tutto. Altro vecchio discorso, si crea fino a dove arriviamo con la tecnologia, perché poi c'è un calcio con la tecnologia e fino a dove si arriva. Sì, però Serie A, questo te l'ha spiegato Casarin benissimo, non è un problema, esiste un tennis d'eccellenza che ha l'occhio di falco, e poi esiste tutto il resto dove l'occhio di falco non c'è, ma è tennis lo stesso, quindi tu puoi tranquillamente mettere la tecnologia in altro Serie A, punto, in Bundesliga, in Champions, nei mondiali, e poi lasciare il resto del calcio altro libero. Altro punto è che noi blateriamo di moviole e tecnologie, però il calcio è un fenomeno globale, quindi non possiamo noi in Italia decidere autonomamente, ok, adesso non possiamo più fare a meno, non ce la facciamo più, vogliamo la moviola, vogliamo la tecnologia. Questo non è possibile farlo, perché c'è un governo europeo del calcio, un governo mondiale del calcio, e tutte le componenti devono essere d'accordo, se no che fai, giochi campionato italiano con la tecnologia, poi vai in Europa, quella non c'è. Insomma, è un discorso magari banale ma realistico. Giuseppe, Monza Brianza, buongiorno, 800240024 se volete intervenire, ogni argomento è quello buono, dica. Buongiorno. Buongiorno. Mi sente? Sì. Volevo un suo parere sul fatto che Allegri, del quale condivido abbastanza le scelte, ha messo sotto naftalina a Samoa a favore di un Evra abbastanza insignificante, perché l'altro giorno, a parte, si è perso anche la Zaza sul gol, lui a centrocampo, l'uomo non te lo salta, è lì, passeggia sulla fascia destra, quantomeno Evra qualche volta l'uomo lo salta e ha creato delle ottime. A Samoa qualche volta l'uomo lo salta, crea la differenza e c'è più facilità di fare gol. Sì. Questa era poi l'ascolto per radio. Sì. L'altra cosa che voglio dire, mi collego all'ultima telefonata. Se noi mettiamo aumentiamo la tecnologia, è la fine del calcio. Perché basta vedere le moviole che ci sono nelle varie trasmissioni, nessuno è uguale. Sì, ma ripeto, però lei dice due cose, una diversa dall'altra. Moviola, possiamo star qui due settimane. Tecnologia è un'altra cosa. Sì. Perché è stata la fine del calcio mettere il sensore per il gol non gol? No, ascolti, no. Allora, precisiamo un discorso. Quando nel pomeriggio, nella sera ci sono le varie moviole, non sono mai d'accordo. Quindi cosa succede in campo? Sì, ma non si sta parlando di quello, cioè nessuno, anche le Blatter, Tavecchio, che ha scritto a Blatter dicendo siamo pronti a sperimentarlo, non hanno in mente quella cosa lì, cioè non hanno in mente che si stia qui, loro a discutere in due minuti se la trattenuta è leggera. Stiamo parlando di utilizzare la tecnologia su cose che siano misurabili. Magari il fuorigioco, secondo me è sbagliato, perché il fuorigioco oramai, ripeto, è più interpretazione che regolamento misurabile con il centimetro, però di quello stiamo parlando. Cioè non stiamo parlando del termine moviola, ma lo dice anche Casarin, se ci parli insieme in maniera un po' più lunga, è improprio il termine moviola. Bisogna intenderci, moviola tecnologia, a quale scopo, con quale utilizzo, eccetera. Mi interessava invece di più il discorso Evra-Asamoah. È vero che Evra non sta dando moltissimo alla Juventus, come sottolineava l'ascoltatore, però è un giocatore di di grande classe, di grande esperienza, probabilmente non è ancora calato in, in quel ruolo, in quella squadra, eccetera. Certo che magari può essere che Allegri abbia voluto risparmiare Asamoah per la partita di domani con l'Olympiacos, che è determinante più di quanto non lo fosse la partita col Sassuolo. Antonio, buongiorno. Buongiorno, io Nico. Chiamo da Milano. Sì. Senta, io sono un simpatizzante interista, ma non volevo parlare dell'Inter. Innanzitutto volevo dirgli che sentire del buon calcio parlato. No, perché, aspetti, perché non vuole parlare dell'Inter? Ma non voglio parlare dell'Inter. Ma no, parliamo dell'Inter. È mazzarriano, da che parte sta? È un fischiatore o no? È un fischiatore o no? No, guardi, io... mi piace il calcio, soprattutto vederlo, non vado allo stadio, un po' di anni fa andavo allo stadio, sinceramente. Ma sta con Mazzarri o sta contro Mazzarri? Guardi, se proprio devo rispondere, sì, sto contro Mazzarri, ma non è un argomento, secondo me, ma così, perché le sta antipatico, perché? Che non gli piace. Ma guardi, io credo una cosa, guardi, io faccio un lavoro così di responsabilità, come ce ne sono tanti in Italia. Quando si ha delle responsabilità, secondo me bisogna anche un po', mi riferisco soprattutto a certi atteggiamenti, bisogna un po' controllarsi, voglio dire, cioè chiunque fa un mestiere per giunta ben pagato, perciò è questo aspetto di Mazzarri che non mi piace. Poi può darsi che come allenatore è anche un ottimo allenatore, sono questi atteggiamenti, queste cose così. Quindi a lei praticamente... non piaceva nemmeno Mourinho da interista? No, Mourinho è un altro che si controllava poco, che mandava gli altri a parlare in conferenza stampa quando c'aveva voglia. No. Era scientifica la cosa, era voluta, cercata, di conseguenza stava dietro, cioè è tutto un discorso. Mourinho non perdeva mai le staffe, non perdeva mai la calma, era sempre assolutamente... Era già tutto previsto, tutto programmato. Ma perché facciamo parlare Antonio dell'Inter, che voleva parlare di un'altra cosa? Antonio, mi dica quello di cui volevo dire. Ogni tanto io faccio un paragone con una bella trasmissione che parla di calcio, perciò calcio parlato, e lo paragono a volte alla bella partita, perché a volte sentir parlare di calcio mi fa tornare indietro di tanti anni, voglio dire, Brera, altri, quel giornalista torinese che non mi ricordo, che non c'è più, ma adesso ho un piccolo di memoria. E volevo tornare a parlare della Roma, cioè volevo parlare soprattutto della Roma, del progetto Roma, di Garcia, di quello che è riuscito a fare a Roma in questo anno e mezzo, che è stato veramente notevole. Perciò una piazza romana difficile, persone molto serie, direttore sportivo in gamba, la società mi sembra che si sta muovendo bene. Sono convinto che la Roma è una delle squadre più forti in Europa, e sicuramente la più forte tranquillamente in Italia, anche se ho qualche dubbio che vinca lo scudetto, ma certamente in Europa dirà la sua, e penso che ci farà vedere del bel calcio, ma volevo sottolineare questo aspetto della serietà, della responsabilità di un allenatore che ha fatto una dichiarazione domenica, ha detto noi vinceremo lo scudetto, prima della partita del Sassuolo, quasi a rimarcare che noi siamo forti e sappiamo di esserlo, indipendentemente dagli arbitri, dalle moviole, dalle cose che... Ma in questo fa tutto parte in questo momento della guerriglia psicologica tra Roma e Juventus, che ho l'impressione sia appena cominciata, e Garcia si sta dimostrando abile anche in questo, e non solo ad allenare la Roma sul campo e ad aver costruito una squadra che ne dica Zeman è tutto tranne che noiosa. Per quanto ne dica Zeman, la Roma è parliamo, tutto tranne di che questa noiosa. Cosa parliamo? Ha detto dopo Zeman, dopo il traffico, sì. Tutti convocati. Giovanni Capuano, tra poco voglio cambiare argomento e parlare di un'altra cosa, ma mi dicevi Zeman? No, Zeman ha detto che il gioco di Garcia è noioso. È noioso. Secondo me Roma è forte, ma il gioco è noioso. Cagliari. Ma secondo me sono divertenti tutti e due. Poi quello di Garcia è un gioco costruito per vincere, quindi è meraviglioso davanti con quelle ripartenze. Tra l'altro guardavo oggi sul Corriere dello Sport questa statistica: dopo le prime due giornate di Coppe Europee ci sono solo due squadre in Europa che hanno segnato più della Roma, e una è il Real Madrid, insomma parliamone. e in Serie A è comunque la squadra dopo Milan e Juventus, o meglio dopo il Milan, che ha segnato più gol. Ma ha anche una gran difesa, quindi io non mi annoio quando vedo la Roma. La prima mezz'ora con Chievo mi ha entusiasmato. Mi diverto da morire quando mi ha entusiasmato. Al netto che il Chievo non è il Real Madrid, attraversava un momento particolare. Mi diverto da morire anche quando sento parlare lui. Diciamo che stiamo avendo un bellissimo momento, siamo molto contenti. Adesso ci ubriacheremo in pullman, festeggeremo come bisogna fare, secondo me, nel mondo dello sport. Quando vinci devi festeggiare senza mancare di rispetto all'avversario. Ma una volta dissi a Sandro De Paul, ci fanno, avevamo ormai quasi 40 anni a testa e non a ridosso dello scudetto vinto, e gli chiesi: ma ci fanno rivincere lo scudetto? E lui cioè, gli si illuminano gli occhi, mi è figata, e dico: però non possiamo festeggiare. E lui chinò la testa e mi disse: vabbè, dai, fallo vincere a qualcun altro. Gianmarco Pozzecco, ne sentivamo il bisogno. Walter Fuochi l'ha intervistato oggi per Repubblica. Ciao Walter. Sì, ho riconosciuto la voce. Era lui. Mi ha parlato per un'ora a fila. Sì, monologando praticamente. La prima risposta, no? È travolgente. Ti ha raccontato che è andato all'Hollywood dopo la... perché a me ha raccontato questo, dopo la partita con... dopo il derby vinto con Cantù, però non c'era il suo amico Angelo Reale, bla bla bla. No, invece bla bla bla. Mi ha raccontato che il ritorno da Pesaro, stante la distanza, i tempi coperti dal pullman, impediva di festeggiare in discoteca, quindi sarà per un'altra volta. Si tiene il jolly, si tiene il bonus. Si tiene il jolly, sì. Walter, questi primi canestri della stagione, che cosa ti hanno detto? Poco, niente, però perché tutti giocheranno contro Milano, che ci siamo liberati di Siena, forse, e che nessuno batterà Milano. Sì, più o meno così, però Sassari, insomma, è una squadra degna, ha avuto anche coraggio, ha visto che con la squadra precedente sarebbe stata relegata probabilmente a un eterno ruolo di bella sfidante, ha avuto il coraggio di cambiarla tutta, e se la zecca sfiderà davvero, e se non la zecca, vabbè, affonderà. Il problema è che ha la Coppa ha guastato i sogni di molte squadre medio-grandi, che sono rimaste medie e non sono diventate grandi. Milano è da corsi in Eurolega, non ti dico per la vittoria finale, ma ad esempio per l'obiettivo sfuggito per un pelo l'anno scorso, cioè le Final Four. Certamente sì, perché poi sono differenze che si misurano su un canestro o mezzo canestro, quindi già l'anno scorso mancò pochissimo, o forse mancò Gentile, che in quel playoff non c'era. Sì, e quest'anno in campionato manca Hackett, mentre in Coppa c'è questa altra nostra distorsione, vabbè, figlia dell'estate che abbiamo vissuto. Dovessi invece giocarti un outsider, chi ti giocheresti? Non in Coppa, in campionato. Nessuno. E questa è una buona notizia. Questa è un'ottima notizia per il basket italiano. No, basta guardare. Insomma, Venezia, che viene accreditata da molti come una squadra così intrigante, l'altra sera, 5 minuti dalla fine, stentava vistosamente con Roma. I romani sono usciti discretamente inferociti, non hanno perso per gli arbitri, però insomma qualche retropensiero potevano legittimamente coltivarlo. Chi c'era, Rocchi? No, non c'era Rocchi. Vabbè, ma Rocchi poi si pente, quindi è un bravo ragazzo. No, Venezia poi gioca domenica sera a Milano, magari è un primo termometro interessante. Grazie Walter. Arrivederci. Grazie Walter Fuochi di Repubblica e buon lavoro. Quindi buona bellissimo, abbiamo scoperto che anche nel basket c'è retropensiero sugli arbitri. No, più che altro ci sarebbe da discutere anche sulla vicenda dell'attuale CT della nostra nazionale, indagato per i motivi che conosci. Allora, io ribadisco, ci vuole un atto di fiducia per essere tifosi dello sport oggi, perché tu apri i giornali dalla prima alla 36esima pagina e leggi di doping, frodi fiscali presunte, finché non vengono accertate. Io oggi volevo parlare di tutt'altro, volevo cominciare da Espulsi Ribelli, Renzi, PD, invece tutto il lavoro che dobbiamo lasciare a Cruciani, questo Giovanni Capuano. Senti, cosa fa la Roma questa sera? Fammi un pronostico, tu li indovini sempre. Secondo me la Roma questa sera no, pareggia, non perde e mette bene il discorso della qualificazione. La cosa che mi entusiasma di questa vigilia. Perché non vince? Non vince perché siamo in un punto diverso del girone rispetto a quello, ad esempio, e lo ricordava anche la copertina iniziale di qualche anno fa. Siamo alla terza partita, il Bayern non si può permettere di perderla questa partita, ha bisogno comunque di uscire da Roma con un punto. Però la cosa che mi entusiasma è che non esiste nessuna sudditanza psicologica della Roma nei confronti dei marziani. E questa, secondo me, è una notizia meravigliosa per il nostro calcio. La Roma ha il vantaggio in questa Champions League di poter giocare, io lo dico tutte le volte, delle grandi partite con il cuore mediamente valeva libero. Fino a Manchester avete niente altro da fare? Poi tu pareggi a Manchester e in realtà tu giochi per qualificarti. Non sono d'accordo, secondo me comunque può giocarsi queste grandi partite col cuore mediamente libero. Poi vediamo cosa succede stasera. Vince 2-1 la Roma. 1-1. Registrato? Domani la mandiamo, sono tutte cazzate. Roma batte Bayern Monaco, adesso più romanisti si toccano tutte le parti. Roma batte Bayern Monaco 2-1. Thank you. Qui lo dico e qui lo confermo. E ci sentiamo domani. Grazie Giovanni Capuano, grazie, che ritroviamo ogni domenica. Oltre che quando vuole passare di qui, sempre ben accetto. Roberto Scaltritti in regia, Claudia Schiattone in redazione insieme ad Alessandro Marco Tulli. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 2. Ciao. Livorno Crotone 10. Bari Modena 11. Tesoro, è 1-0, 1-1. Viva l'ignoranza! Portaci tu a Salas, guarda che gli ha fatto! Che sei razziale! Bravo! Ma che è successo? Scontri sui esperti? No, se stava a mangiare su quando quel sosso del cielo infiarava l'incrocio di pari. Allora la palla di è rimasta a strada qua. Fabio, non mi fare così. Fabio, fatti forse non mi abbandonare. Vedrai che pareggia. Non pensarci alle cose brutte. Non pensare a Roma Lecce. Pensa a Bruno Conti, a Falcao. E spudero sto supplì di portarci tu a.